commendatore romano che usa il raccordo anulare con la Porsche non paga nulla, ma siccome qualcuno lo paga questo raccordo anulare, i pensionati, quelli che guadagnano 1500 euro al mese con le loro tasse, pagano per il commendatore romano. Allora bisogna, e c'è anche la questione di giustizia sociale, noi cerchiamo di introdurre quel concetto che vale per il 90% dei cittadini italiani, che chi usa paga, invece qui le classi anche meno abbiente romane pagano per le classi abbienti. Ma chi dovrebbe pagare allora sto raccordo? Se non pagano quelli che lo attraversano come tangenziale, nel vostro progetto, nel suo progetto? Chi lo usa come autostrada, per esempio io parto da Firenze e vado a Napoli, no? Quindi a un certo momento utilizzo il raccordo anulare. Se lo vuole utilizzare, certo. Perché sa che c'è la bretella per andare a Napoli, comunque. Se voglio, ovviamente. Sì. Pago quel pezzo autostrada che oggi è gratuito. Ma lei lo sa che non si farà mai, c'è un'opposizione trasversale pazzesca, resistenze incredibili, il sindaco, il presidente della provincia. Sì, però questa ormai è una battaglia culturale, nel senso che in tutto il mondo sta venendo fuori questo concetto per il quale le opere, le grandi opere infrastrutturali devono essere pagate da chi le usa e quindi non più con lo Stato che mette i fondi a fondo perduto. Sì. Per cui se non la vinciamo resteremo sempre un paese arretrato, a parte diciamo la questione di giustizia sociale. Ma perché i romani, i politici romani, non lo so perché non so se sia stato fatto un sondaggio, però quando c'è da pagare sicuramente perché direbbero di no, perché è normale che sia così. Perché i romani non vogliono pagare? Cioè, secondo perché sono arretrati culturalmente, che pensano ancora a uno Stato deve pagare tutto lui. Ah, arretrati culturalmente. Arretrati culturalmente. Sì, quindi Alemanno... Alemanno... Di arretratezza culturale in cui c'è ancora la logica per cui lo Stato deve pagare tutto lui. I romani sono così, però io sono romano, non sono ma così come me. I romani, i localisti, c'è una battaglia localista che c'è dovunque.